Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi i mercati si avviano a chiudere tutto sommato invariati, meno 0,15% il FTSE MIB, bene altre borse, ma siamo sempre con rialzi dello 0,2-0,3%, penso a Francoforte, Parigi invariata, l'America invariata, Londra invariata anch'essa. E allora, viste tutte queste non variazioni, citiamo l'euro a quota 1,4872, i peggiori titoli a Milano sono Buzzi Unice meno 2,5, Telecom meno 1,6 come in pregilo e l'1,5 che perde Fiat. I migliori, sempre tra quelli a maggiore capitalizzazione, si chiamano Prismian più 5,51, Banco Popolare più 3,20, CIR più 1,90 come la Banca Popolare di Milano, e l'1,3% lo guadagnano sia Mediaset che Monte dei Paschi, l'1%. È il rialzo di Geox, lo 0,80, quello di Fondiaria Sai. Ancora, per quello che riguarda i titoli e i mercati, citiamo il petrolio che è in calo a $77,7. Che cosa è successo di importante oggi, perlomeno fino adesso? Beh, un dato americano sulla disoccupazione peggiore di ogni attesa nel mese di settembre. Attenzione, perché questo crea ancora più complessità nel capire la qualità, la natura di questo tentativo di ripresa economica. Tutti si attendevano infatti che la disoccupazione americana restasse più o meno stabile, è peggiorata di 15.000 posti di lavoro, il che porta sostanzialmente a 190.000 i posti di lavoro cancellati nel solo mese di ottobre. Praticamente l'economia americana si è beccata il 22esimo mese di fila di calo dell'occupazione. Una sequenza di questo tipo, cioè 22 mesi di calo degli occupati in America, non capitava da 70 anni. E qui, anche qui, i riferimenti temporali sono importanti, da prima della Seconda Guerra Mondiale. Ancora l'indice a questo punto di disoccupati americani è arrivato a quello del 1983, quindi pre-Reagan Economics, pre-rilancio dell'economia operato anche da Ronald Reagan. Stiamo parlando di un tasso di disoccupazione al 10,2%. Infatti in questi, sostanzialmente in questi 26 anni, mai la disoccupazione americana era tornata al 10%. I riferimenti temporali, a mio avviso, sono importanti per evitare tante polemiche su c'è, non c'è la crisi, è difficile, non è difficile. Quando tu hai dei dati che non vedevi sulla disoccupazione da 26 anni, puoi dire quello che vuoi, ma alla fine ti sei già risposto da solo, così come quando non si vedevano 22 cali consecutivi dell'occupazione da 70 anni, anche qui non c'è bisogno di tante analisi politiche. Barack Obama parlerà di questo dato, tanto è, diciamo, delicato e preoccupante. Questo ha creato un po' di disorientamento sulle borse, anche perché questa mattina, e ne parleremo nella seconda ora, l'OCSE invece aveva fotografato una situazione migliore di quella che poi è emersa, dicendo che c'erano forti segnali di ripresa in alcuni paesi europei, nel caso specifico soprattutto l'Italia, ma non solo, anche la Francia. Meno forte la ripresa in Gran Bretagna, dicevo, forti segnali di ripresa in alcuni paesi europei, e indicando l'Italia tra questi. I paesi sono Francia, Italia, Regno Unito e Cina, Canada e Germania invece un po' più indietro. Ancora l'Italia è tra i paesi in cui più forte si è registrato la ripresa quanto indice OCSE, ne parleremo nella seconda ora del programma. E poi tutta la vicenda CIPE, oggi è una giornata molto densi di avvenimenti, le decisioni prese dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, le metropolitane a Milano, gli aeroporti, ma non solo, un insieme di disponibilità economica che dovrebbe essere uscito oggi dal CIPE. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora andiamo avanti con le stime, quella di Moody's oggi sull'Europa che diventa un po' più italiana, e non è in questo senso un buon giudizio. Secondo il Senior Credit Officer di Moody's, che è l'agenzia di rating, quella che dà i voti al debito dei vari paesi, c'è un deterioramento generalizzato del debito pubblico nei vari paesi, non è un elemento sufficiente comunque per cambiare i voti ai debiti dei singoli paesi. Alcune trimestrali oggi uscite: American International Group, AIG, uno dei colossi in questo caso dei mutui, salvato dal governo americano con 45 miliardi quasi di iniezione di liquidità. Ebbene, oggi ha visto il conto tornare inutile a 455 milioni per quello che riguarda il trimestre, contro una perdita netta dell'anno scorso di 24 miliardi e mezzo. Perché insomma, buono il dato, non buono invece quello per Royal Bank of Scotland, che continua ad essere in difficoltà, ormai è di fatto del governo britannico, ne ha l'84% se non ricordo male. La Royal Bank of Scotland, che è la più grande banca britannica ed è completamente statale, ha chiuso ha chiuso il terzo trimestre con una perdita di 1.800 milioni di sterline, 2 miliardi di euro, su cui pesano soprattutto gli accantonamenti per i cattivi crediti, cioè crediti che difficilmente saranno poi esigibili, e le svalutazioni per investimenti in prodotti tossici, pari nel complesso a 3 miliardi e 700 milioni di sterline. E questo rosso da 2 miliardi si confronta con l'utile invece di un anno prima, che era di 1 miliardo di euro. Allora, la ripresa italiana, i tentativi di ripresa, anche di questo ha parlato il Presidente del Consiglio Berlusconi, che ha detto il peggio della crisi alle spalle, la Gran Bretagna è il paese più segnato, noi siamo al terzo posto in Europa come contribuenti, quindi abbiamo anche aumentato le posizioni nella classifica del PIL. Per quanto riguarda la crisi ci sono forti segnali di ripresa, un po' dovunque. OCSE stamattina, l'avrete visto, segnala l'Italia al top come ripresa, con un aumento direi rilevante rispetto ad agosto e anche rispetto a settembre del 2008, e anche per quanto riguarda i contatti che noi abbiamo col mondo delle imprese, sia per quanto riguarda le imprese industriali, grandi, le medie, le piccole imprese, gli artigiani e i commercianti, devo dire che i rapporti che io sto costantemente tenendo con le loro associazioni mi fanno dire che c'è un diffuso ottimismo, e che naturalmente ci sono delle imprese che sono poi quelle che fanno notizia e che appaiono di più, che sono in difficoltà, ma che nella generalità dei casi c'è effettivamente una sensazione, che non è soltanto una sensazione perché ci sono segnali anche concreti, di una ripresa con il peggio della crisi alle spalle. Tra l'altro la crisi ha segnato più di altri paesi in Europa la Gran Bretagna, che è un paese che non ha una economia manifatturiera come la Germania o come noi, e essendo la sua economia basata soprattutto sulla finanza, c'è stata una recessione forte che ci ha riportato al terzo posto in Europa. Il sorpasso a cui fatto riferimento il Presidente del Consiglio Berlusconi è avvenuto nel terzo trimestre 2009, quando il PIL inglese è calato. Va detta una cosa per precisione: c'è anche un rafforzamento dell'euro nei confronti del pound britannico, della sterlina britannica, che ha, visto che poi lo si fotografa in euro, il raffronto si fa in euro, che ha modificato i rapporti di forza. E poi comunque la Gran Bretagna ha subito una batosta più forte, essendo più legata alla finanza, come ricordava Berlusconi, rispetto all'Italia. Comunque nel terzo trimestre il PIL inglese è ammontato a 347 miliardi di sterline, quello italiano calcolato in sterline e per via anche del rapporto di cambio a 350 miliardi, quindi per 3 miliardi abbiamo superato la Gran Bretagna. Ripeto, pesa anche molto il rafforzamento dell'euro rispetto alla sterlina. L'andamento dell'economia britannica e di quella italiana è infatti molto simile: perderà quest'anno il 4,3% l'economia britannica quanto a PIL, l'Italia il 4,5%. Buone notizie, insomma, dalla Gran Bretagna arrivano anche sul fronte Fiat, perché per la prima volta la 500 è entrata nella top 10, nella classifica delle prime 10 auto vendute, più vendute in Inghilterra. Adesso parliamo di cipe, e quindi di quello che è stato deciso oggi sulle opere infrastrutturali, ma anche di IRAP e quindi di possibili interventi a sostegno delle nostre imprese. Per quello che riguarda l'IRAP e lo scudo fiscale, lo scudo potrebbe essere prorogato fino al 30 giugno, limitatamente alle cessioni di beni o partecipazioni azionarie, questo che prevede, quello che prevede uno degli emendamenti alla legge finanziaria, che dovrebbe garantire un rafforzamento del gettito atteso dalla sanatoria, dallo scudo fiscale. Spunta anche tra gli emendamenti della finanziaria, come oggi presente su molti giornali, un mini taglio dell'IRAP per le piccole e medie imprese in perdita. Quindi verrebbe levata l'IRAP, scusatemi, verrebbe levato dall'imponibile per le imprese in perdita la parte che loro perdono sul bilancio, siccome vale per molte. Per molte imprese era già stato chiesto anche da Mantova che l'IRAP venisse eliminata per gli oneri passivi delle imprese, cioè non ha senso pagare la tassa quando si chiude in perdita, perlomeno elevato dal calcolo dell'imponibile complessivo, visto che l'IRAP si paga anche sugli dipendenti, non si paga solo sull'andamento del conto economico. Su questo oggi è intervenuta la Presidente Confindustria Emma Marcegaglia, intervistata dalla nostra Alessandra Schepisi. Sull'IRAP ho detto, aspettiamo di capire meglio di che cosa si parla di un'ipotesi di rendere deducibile l'IRAP dall'IRES per le imprese in perdita, aspettiamo di vedere, potrebbe essere un primo passo, ecco, noi auspichiamo che comunque ci possano essere ulteriori passi di riduzione delle tasse sia sulle imprese che sui lavoratori, in un momento come questo il taglio delle tasse può aiutare la ripresa. E poi il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che oggi ha dato il via libera a un gruppo di opere infrastrutturali definite strategiche e ad altri interventi medi e piccoli. Il valore complessivo del via libera arrivato oggi, anche se su alcune cose si sta ancora cercando di capire esattamente quella che sarà la dinamica, comunque il valore complessivo è di 8 miliardi e 800 milioni di euro. Dove andranno questi soldi? E allora, per quello che riguarda la Pedemontana Lombarda, vengono stanziati oggi dal CIPE 4 miliardi e 100 milioni, 1 miliardo e 300 milioni per il ponte sullo stretto, 1 miliardo di euro per il piano contro le emergenze idrologiche, 1 miliardo per l'Abruzzo, 910 milioni per la linea 4 della metropolitana milanese, 780 per la linea 5, sempre della metropolitana milanese, e poi 500 milioni per il Terzo Valico e 120 milioni per le alluvioni in Sicilia. Comunque, sentiamo tutti i finanziamenti approvati oggi da questa scheda. Valgono complessivamente 8 miliardi e 800 milioni di euro i finanziamenti per opere infrastrutturali che hanno ottenuto il via libera del CIPE. Poco meno della metà dei fondi, 4,1 miliardi, sono destinati alla sola Pedemontana Lombarda. Il secondo stanziamento per valore è quello da 1,3 miliardi di euro assegnato al Ponte sullo Stretto per l'apertura della prima fase di progettazione. Un altro miliardo è stato destinato all'opera di ricostruzione delle aree abruzzesi colpite dal terremoto, mentre le zone alluvionate della Sicilia potranno contare su 120 milioni di euro. Sempre in tema di contrasto al rischio idrogeologico, è stata decisa l'attribuzione di 1 miliardo di euro al Ministero dell'Ambiente per un piano straordinario nazionale di messa in sicurezza delle aree più problematiche. Il CIPE ha anche sbloccato i fondi per le nuove linee 4 e 5 della metropolitana milanese in vista dell'Expo 2015. Le due opere ricevono rispettivamente 910 e 781 milioni di euro. Ha invece ottenuto un finanziamento di 500 milioni il cantiere per la realizzazione Terzo Valico dei Giovi in Liguria, da cui passerà l'alta velocità ferroviaria Milano-Genova. Dal CIPE è oggi anche arrivato l'ok per l'aumento delle tariffe aeroportuali, che scatterà dal prossimo 1 gennaio. I maggiori introiti saranno vincolati al potenziamento degli scali. Ieri era stato invece deciso il congelamento degli 800 milioni destinati al piano per lo sviluppo delle connessioni a banda larga, rimandandone l'assegnazione a crisi finita. E allora, sulla banda larga, vedo che alcuni scrivono e dicono: ma insomma, la banda larga non ne avete fatto un caso. Allora, a parte il fatto che ribadisco, ma è un'opinione, si potranno anche dire opinioni, che tra 1.300 milioni destinati al ponte sullo stretto per la fase di progettazione e 800 milioni di euro che servivano al piano Romani-Brunetta per iniziare a mettere in banda larga il paese, cioè quindi rendere tutta l'Italia accessibile con velocità alta sulla rete internet, non ho dubbi che la seconda cosa sia da preferirsi alla prima. Ognuno può pensare come vuole, ma 1.300 milioni di progettazione per il ponte poteva aspettare anche un anno, a mio avviso, mentre la banda larga, che serve anche alle piccole imprese e comunque elimina quel digital divide, quella differenza di accesso alle tecnologie che c'è in molte aree del paese, beh, permette a un'impresa che sta a Caserta di lavorare come un'impresa che invece è già cablata in altre aree del paese, per cui su questo non ho dubbi. Dopodiché, siccome alcuni scrivono: ma insomma, la banda larga era un finto problema, ci ha scritto ieri un ricercatore della Nokia Siemens Networks, che non cito per privacy, anche se si firma, e dice: da tempo stiamo combattendo contro la decisione della Nokia di trasferire la società di ricerca in India e in Cina. Il piano Romani-Brunetta sulla banda larga era la nostra ultima speranza per convincere Nokia a ripensare i suoi piani. A questo punto per i 600 ricercatori in Italia il futuro è segnato. Ovvio che nessuno dà la colpa al governo e alla Nokia che decide di trasferire gli impianti in India e in Cina, però attenzione, perché anche dietro gli investimenti in infrastrutture tecnologiche ci sono posti di lavoro, non ci sono solo sulla parte, diciamo, di costruzione di opere infrastrutturali classiche, autostrade e ponti. Dopodiché ribadisco la mia posizione sul ponte sullo stretto, che non è condivisa da altri, e questo va bene. Andiamo avanti. Via libera dal CIPE anche l'aumento delle tariffe aeroportuali in vigore da gennaio. Questo però dovrebbe essere di pertinenza del ministro all'economia Tremonti, quindi su questo si cerca ancora di capire chi deciderà poi di aumentare le tariffe aeroportuali. Le compagnie aeree hanno detto che le tariffe sono già alte, praticamente si pagherà fino a 3 euro in più a passeggero. L'associazione dei consumatori definiscono vergognosi questi rincari e questa è la loro reazione. Ancora, il ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, che ha espresso oggi dopo il CIPE la sua soddisfazione per l'operato del governo e per i soldi stanziati in pochi mesi per le infrastrutture, per le opere pubbliche, 23 miliardi di euro. Credo di poter dire che in pochi mesi, non so, poco più di un anno, 23 miliardi di opere infrastrutturali in un momento di crisi economica e finanziaria, non italiana ma mondiale, credo che si possa dire che sia stato un successo. Sono ovviamente soddisfatto come ministro di riferimento, ma questo lo si deve al lavoro ovviamente di tutto il governo, che ha collaborato e ha reso possibile poter far partire le infrastrutture che, come hanno detto tutti i capi di Stato, lo sviluppo economico nei vari paesi può riprendere se ripartono le infrastrutture. Noi abbiamo seguito questa strada e credo anche con un certo successo. E poi un tema che ciclicamente ritorna, vi è tornato anche oggi il Presidente del Consiglio Berlusconi, cioè i tempi per aprire i cantieri, oggettivamente una vera e propria patologia del paese, tempi lunghissimi per le concessioni, per le autorizzazioni, per i via libera. Sentiamo Berlusconi sui tempi. Quello che però è venuto fuori ancora una volta è il tempo, che definire lungo è usare un eufemismo, l'immane tempo necessario per arrivare ad aprire i cantieri delle opere pubbliche. Questo è qualche cosa che rappresenta una vera patologia per il nostro Paese. Soltanto nel 2002, per esempio, noi abbiamo avuto la valutazione ambientale, quindi il Ministero, che era aveva ricoperto dalla responsabilità del ministro Altero Matteoli, dette la licenza di impatto ambientale, ok per l'ambiente, nulla da eccepire. Quindi da quella data in poi passarono ancora 4 anni prima di arrivare all'apertura del cantiere. Non si può continuare così. Quindi abbiamo deciso, avevamo già detto, che ci saremmo applicati a una riduzione di questi impicci, chiamiamoli così, è un eufemismo anche questo, burocratici, ma ci impegniamo a fare un grande lavoro per arrivare a tempi assolutamente inferiori. E poi il piano casa, che sempre secondo quanto detto il Presidente del Consiglio potrebbe portare all'economia, introdurre nell'economia da 50 a 70 miliardi di euro, riferendosi al piano che permette l'ampliamento dei volumi delle cubature delle abitazioni. E ha detto anche che, adesso lo sentirete, che hanno deciso, il governo ha deciso di chiamare i presidenti di regione che non hanno ancora approvato il piano casa. Abbiamo deciso in Consiglio dei Ministri di chiamare a un rederazionem tutti i presidenti di regione che ancora non hanno approvato il piano casa. Vi ricordate che il governo ormai da molti mesi ha avuto questa idea, che è stata proprio un'idea del Presidente del Consiglio, di consentire a chi ha avuto sviluppi familiari, figli, nipoti, eccetera, e abita in una casa mono o bifamiliare, di costruire un 25% in più della superficie o comunque della cubatura della casa, senza intralci burocratici, senza lungaggini burocratici. Soltanto 3 regioni ad oggi hanno fatto propria questa indicazione del governo centrale. I calcoli che sono stati effettuati dalle organizzazioni di settore ci hanno portato a ritenere che questo piano casa potrebbe introdurre nella economia da 50 a 70 miliardi di euro, che sono soldi che le famiglie tengono come depositi e come risparmi in banca, che verrebbero immessi nel mercato. Adesso le borse. Giornata incerta, debole, dati sulla disoccupazione americana a record, immagino che sia questo che ha irritato alcuni ascoltatori, mica la creiamo noi la disoccupazione americana. E allora, i dati sulla disoccupazione americana a record che segnalano problemi un po' più forti per l'economia di quanto non ci si attendesse hanno intimorito le borse, l'America è invariata, Francoforte ha guadagnato lo 0,1, Parigi lo ha perso, lo 0,1 come Milano che lo ha perso, e Londra guadagna lo 0,2%. Torneremo sui dati della disoccupazione americana. Confermo a chi ce lo chiede al 349-238-6666 che stiamo parlando di 22 mesi di calo dell'occupazione negli Stati Uniti di fila, non succedeva da 70 anni, e che il 10,2% di tasso di disoccupazione registrato a sorpresa a settembre è il livello più alto dal 1983, prima dell'era dell'epoca Reagan. Adesso la borsa, e allora Prismian più 5,51 è il miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, segue il Banco Popolare più 3,3 e le CIR. Come sempre con Radio Core, il Sole 24 Ore, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Prismian. Sì, Prismian è stata premiata all'indomani della trimestrale, certo. I conti sono stati assolutamente in calo, ma comunque in linea con le attese, e la società ha confermato i target per i mesi a venire, e soprattutto gli analisti iniziano a scommettere su una ripresa. Infatti i vertici dell'azienda hanno già notato che hanno registrato segnali di ripresa, ad esempio in Nord America, e ovviamente tutti scommettono sul fatto che nel momento in cui ci sarà una ripresa, Prismian, essendo operando nelle infrastrutture, sarà la prima a beneficiarne, e quindi appunto è proprio una scommessa su quanto succederà nei mesi futuri. La maggior parte degli esperti hanno emesso quindi raccomandazioni positive, ritenendo che a questi livelli di prezzo le azioni siano sottovalutate. Ancora i bancari, oggi bene Banco Popolare più 3,5, bene anche la Popolare di Milano più 1,80, Monte dei Paschi più 1,3 e basta, e Fondiaria più 0,7 di bancari grossi, questi vedo. Sì, esatto, oggi hanno recuperato nettamente terreno i bancari, le azioni in particolare del Banco Popolare si sono messe in evidenza sin dalle prime battute di questa mattina, sospinte anche dalle voci che si stia accelerando il processo di cessione di EFI Banca a Barclays. In verità poi la banca ha emesso un comunicato nel quale dice che per adesso non ci sono novità sulla trattativa, però il mercato sembra crederci. Al di là di questo, le Banco Popolare sono le azioni che nei giorni scorsi avevano perso più punti e quindi si può parlare anche di rimbalzo tecnico insieme agli altri titoli degli istituti di credito. Ancora, tra i titoli che sono andati in trimestrale ieri c'è sicuramente Telecom Italia, ma non solo. Allora, oggi i peggiori in assoluto sono Buzzi Unice -2,3, Telecom poi -2,1, Bulgari -1,80, Campari -1,5, Fiat -1,5, Comansalde STS in pregilo -1,3, Pirelli -1,2%. Stiamo sempre parlando dei titoli a maggiore capitalizzazione, Fiat. Sì, Fiat c'è molta attenzione dopo la presentazione appunto del piano di rilancio di Chrysler. Comunque Marchionne ha parlato anche oggi, ha dato delle indicazioni, ad esempio ha dato delle indicazioni ovviamente ancora una volta positive, ha detto che per quanto riguarda lo spin-off dell'auto se ne parlerà al momento giusto e per adesso invece non pare sia il momento giusto. I titoli oggi sono stati succubi delle prese di beneficio, avevano corso molto nei giorni precedenti e quindi sono tornati di nuovo sotto la soglia degli 11 euro. Volete già sapere i migliori e peggiori in assoluto? Sono Interpump +6,4%, l'ex Schiaparelli che si chiama Kinexia +7,8, questi migliori, e Prismian, l'abbiamo ricordata, +5,5. I peggiori in assoluto, Green Vision -8,60, Icon -5,6, Piaggio -3,7%, Telecom dopo la trimestrale -2,1 e anche Pirelli -1,2%, anch'essa in seguito alla trimestrale, tutte uscite ieri. Prego. In entrambi i casi si può parlare sempre di prese di beneficio. Ieri le Pirelli sono salite di oltre il 3%, le Telecom non appena diffusi i dati trimestrali erano arrivate a guadagnare anche il 6%. Su Telecom peraltro il mercato si interroga appunto su quella che è la riorganizzazione dell'azienda, che peraltro ufficialmente non è ancora stata comunicata, e stanno analizzando a freddo i dati dove effettivamente la marginalità della società è migliorata oltre le stime degli analisti. D'altra parte è vero anche che i conti comunque hanno mostrato debolezza, quindi a questo punto c'è un po' di confusione proprio sul mercato, tant'è che anche a livello di report alcuni analisti continuano ad essere positivi mentre altri hanno invece rivisto al ribasso le stime. Ancora sui titoli, oltre a Telecom, marginalità. Lo dico a chi scrive, vuol dire che i margini operativo lordo sono migliorati, non che il Telecom fosse marginale, è un termine legato alla finanza. Ancora, per quello che riguarda i titoli, ne vorrei citare un paio. Finmeccanica, ieri uscita la trimestrale, ma è una buona trimestrale, più che buona la trimestrale di Finmeccanica ieri, oggi il titolo però non ne ha risentito in senso positivo, ha perso lo 0,6% ed è a 11,79 euro. Sì, in verità questa mattina i titoli erano ben acquistati e si erano messi in evidenza appunto anche sulla scia dei dati trimestrali. D'altra parte poi quando non appena sono stati resi noti i dati sulla disoccupazione americana, le azioni di Finmeccanica hanno imboccato la strada del ribasso e sul finale hanno chiuso con questo calo dello 0,59%. Allora vi leggo invece alcune dichiarazioni di Sergio Marchionne, numero uno della Fiat, che ha rilasciato poco fa, è tornato sulla Opel e ha detto che General Motors ha fatto bene a tenere Opel anziché cedere al consorzio Magna Sberbank. Gli americani avevano un loro processo di ristrutturazione che è stato interrotto da questo problema tedesco e non hanno potuto risolverlo fino ad adesso, ma comunque ha confermato la sua idea. Ma soprattutto Marchionne ha precisato che lo Stato italiano deve alla Fiat oltre 400 milioni di euro di crediti di imposta. ha precisato dicendo che ogni vettura in Italia la vendiamo sotto costo, il grande aiuto ce lo stiamo dando da soli, non c'è nessun aiuto pubblico e il governo alla fine di settembre ci doveva ancora 400 milioni di crediti d'imposta, siamo l'unica eccezione al sistema europeo. Nel 2004 eravamo disastrati, non abbiamo mai chiesto aiuto a nessuno, non abbiamo chiesto una lira al ministro Tremonti. In effetti Fiat fu salvata da una cordata di oltre 3 miliardi di euro di quattro banche, Unicredit, Intesa, Monte dei Paschi e, vado a memoria, San Paolo, se non si era ancora fusa, però su questo abbiate pietà nella mia memoria. Adesso chiuso il tema, grazie Leonardo Micheli, buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Collo di Sole 24 Ore. Visto che parlavamo di banda larga, dei soldi che non ci sono per la banda larga ma ci sono per altre cose, restiamo sul tema dell'innovazione e della ricerca. E ci restiamo perché oggi è stata ed è la settima giornata della ricerca promossa da Confindustria, cresce chi innova. Sappiamo che come dati internazionali alla mano l'Italia è in fondo alla classifica di chi investe in ricerca e sviluppo, però attenzione perché è molto bassa la parte privata. In realtà ne abbiamo parlato molte volte, spesso le imprese non mettono a bilancio quello che investono in ricerca e innovazione, in altri casi quando sono molto piccole e poco strutturate non capiscono nemmeno che alcune cose che hanno fatto andrebbero sotto la voce di innovazione e ricerca. È proprio un problema anche culturale. Noi comunque spendiamo tra pubblico e privato l'1,13% del PIL, ossia meno della media europea, siamo a un terzo rispetto al Giappone, la metà della Francia e della media OCSE. Attenzione, ripeto, però, a tutto quello che le imprese fanno come innovazione di processo, innovazione di prodotto, che non mettono la voce ricerca e innovazione. E allora il ministro Gelmini, a margine della settima giornata della ricerca, ha annunciato che a fine novembre vi sarà un bando sul programma operativo nazionale di ricerca e competitività da 1 miliardo e 600 milioni di risorse per le regioni, quasi tutte del sud. Un settore assolutamente strategico per il rilancio tanto delle piccole e medie imprese come delle grandi imprese, ma direi che è la chiave di volta per superare la crisi. In questo convegno avremo la possibilità di raccontare non solo le novità più importanti del programma nazionale di ricerca in via di stesura, ma anche di fare importanti annunci riferiti alle risorse. 100 milioni di euro per le imprese del nord, a fine novembre un bando sul PON, quindi 1 miliardo e 600 milioni di risorse per le regioni della convergenza, quindi per tutte le regioni o quasi del mezzogiorno, e quindi la possibilità, anzi il dovere, di investire, di capitalizzare al meglio queste risorse che sono una davvero, credo, un fatto assolutamente positivo, purché ci sia la capacità di fare squadra, cioè di creare forti sinergie fra il settore pubblico, mi riferisco agli enti territoriali, alle università, agli enti di ricerca, ma con un coinvolgimento forte, quindi ricadute importanti sulla competitività da parte del settore privato. Quindi la strategia che il Programma Nazionale di Ricerca propone è proprio questo, l'avere una grande attenzione alla collaborazione fra il settore pubblico e il privato, anche per accedere in veste da protagoniste, non di subalterna, da parte dell'Italia ai programmi internazionali. Mi riferisco al settimo programma quadro e alla individuazione delle strategie per l'ottavo programma quadro, che prevede svariati miliardi di euro da investire in tutta Europa e quindi anche in Italia. Così il ministro Maria Stella Gelmini, appunto ministro di istruzione, università e ricerca. Benissimo questo bando sul programma operativo dal valore di 1 miliardo e 600 milioni. Io però devo ripetere, la Gelmini non c'entra nulla, ci mancherebbe, ma mentre si fanno i bandi su soldi futuri si sono bloccati i soldi reali, 800 milioni di euro che servivano al paese per arrivare entro il 2012, quindi in tempi strettissimi, in tutto ne servono 1,5 miliardi, alla estensione della banda larga, cioè di internet veloce, meno veloce di quello di altri paesi, ma veloce, a tutto il territorio nazionale. Ora, se questo non è investire in ricerca e sviluppo per tutti, per chi vuole fare un'attività da casa, per chi ha un negozio, per chi ha un'impresa, vabbè, vediamo di capirci. Lo dico a chi pensa che la banda larga sia un giocattolino da amanti di videogame, oppure un'orchestra in cui il peso dei vari componenti è eccessivo. Vabbè, andiamo avanti. Dai, Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, dal microfono della nostra Alessandra Schepisi, dice: attenzione, il Confindustria ha lanciato anche un progetto Sud-Nord, per collegare le imprese grandi e piccole del Mezzogiorno a quelle grandi e piccole del Centro-Nord e ai centri di ricerca di competenze in tutto il paese. Noi oggi abbiamo premiato molte aziende perché pensiamo che proprio anche con l'esempio positivo di aziende che sono diventate leader, che hanno conquistato nicchie di mercato, con la ricerca diamo il buon esempio, quindi partire proprio dai casi che esistono è un fatto molto positivo. Un altro progetto che ci piace molto, il progetto Sud-Nord, cioè il fatto di unire imprese del Sud, imprese del Nord, università, centri di ricerca del Sud e del Nord, metterli insieme su progetti concreti e portare avanti appunto iniziative di ricerca che possono avere una ricaduta positiva proprio nel Mezzogiorno. Passiamo adesso ai temi dell'economia internazionale, soprattutto a quello che ha dichiarato e sta dichiarando il presidente americano Barack Obama con il dato brutto, bruttissimo, sulla disoccupazione statunitense di oggi. Per chi si fosse appena messo in collegamento, 22esimo mese di fila di calo degli occupati negli Stati Uniti, 190.000 posti di lavoro persi nel mese di settembre, la disoccupazione americana che va a sorpresa al 10,2%, supera la soglia storica e psicologica del 10%, soglia che non toccava dal 1983. Conferenza stampa abbastanza all'improvviso di Barack Obama alle 17.30 ora italiana iniziata, un insieme di dichiarazioni sono arrivate dal presidente americano. Ci vuole tempo, pazienza e fiducia sulla ripresa. I dati di oggi sulla disoccupazione sono un duro richiamo alla realtà. Sentiamo in versione originale un passaggio che cercheremo di tradurre, diciamo, a braccio. I just signed into law a bill that will help grow our economy, save and create new jobs and provide relief to struggling families and businesses. The need for such a measure was made clear by the. Allora Obama ha ricordato come ha firmato oggi una legge che aiuterà la crescita dell'economia e soprattutto aiuterà la creazione di nuovi posti di lavoro, una legge, una misura necessaria visti i dati sulla disoccupazione diffusi nel pomeriggio. Sebbene, ha detto Obama, si siano persi meno posti di lavoro a settembre che nei mesi precedenti, siamo saliti sopra il 10%, e allora quando abbiamo cominciato il nostro mandato l'obiettivo era frenare la caduta libera dell'economia. Ci siamo riusciti, come dimostra il dato sul PIL americano del terzo trimestre. E la storia ci insegna che la crescita dell'occupazione è sempre qualche passo indietro, arriva sempre un po' dopo la crescita dell'economia. Non mi fermerò, ve lo prometto, finché gli americani che vogliono un lavoro non lo troveranno. E la legge che ho firmato oggi prevede anche un taglio delle tasse che gravano sulle imprese, con in particolar modo tagli ancora maggiori per le imprese più piccole. E vedi che anche in America il tema dei tagli fiscali alle imprese, alle piccole imprese, è un tema di estrema attualità. È importante, ha aggiunto Obama, dire che la legge che ho firmato oggi non graverà sul nostro deficit. Sono fiducioso che, sebbene richiederà tempo e pazienza, la nostra economia si riprenderà. E di segnali di ripresa robusta, forte ha parlato oggi l'OCSE, sarà il prossimo tema del programma. Prima di tutto vorrei un brevissimo collegamento con l'inviato del Sole 24 Ore, Alessandro Melli, che si trova in Scozia, a St. Andrews, dove è iniziato il vertice del G20. Alessandro, buonasera. Sì, buonasera. Reazioni sul dato sulla disoccupazione americana? Beh, avete fatto giustamente riferimento sia al dato della disoccupazione americana sia a quello, di cui forse poi parlerete, del superindice OCSE, che indica che cosa farà l'economia. È un indice che anticipa le tendenze dell'economia, che dice invece che la ripresa sta arrivando. Normalmente, come ha detto Obama, la crescita del PIL arriva prima, la crescita dell'occupazione arriva dopo. Cosa dice il G20 e cosa dirà domani nel comunicato finale? Dice che la ripresa c'è, ma è molto fragile, per cui quelle misure di stimolo che sono state adottate l'anno scorso e all'inizio di quest'anno per spingere la crescita ancora non vanno eliminate, anche se i deficit pubblici sono peggiorati, anche se il debito pubblico è peggiorato. Quindi le famose exit strategy, le strategie d'uscita dallo stimolo all'economia, vanno rinviate finché non si sarà sicuri che effettivamente la ripresa si è consolidata, e questa sicurezza al momento ancora non ce l'abbiamo. Grazie Alessandro. Sì, buonasera. Allora, come si diceva, diffuso questa mattina dall'OCSE il superindice, cioè la misura di come va l'economia dei paesi aderenti all'OCSE, che è migliorato a settembre 1,3 punti rispetto a agosto e 3 punti e mezzo in più rispetto a settembre del 2008. L'Italia, tra l'altro, quindi vediamo di chiudere questo venerdì, questa settimana, con una buona notizia, mostra il maggiore incremento su base annua, quasi 11 punti in più. Per parlare di questi dati, ma anche della disoccupazione americana e dell'indicazione che stanno arrivando dai paesi presenti, dai ministri dell'economia e delle finanze, dai banchieri centrali presenti a St. Andrews per il vertice di G20 in Scozia, siamo in collegamento con il vice segretario generale dell'OCSE, professor Piercarlo Padoan. Buonasera. Buonasera. Dunque, forti segnali di ripresa, dice l'OCSE, oggi usando e analizzando i vostri indicatori. Ma attenzione, serve cautela. Come si lega questa indicazione, che tutti hanno recepito come molto positiva, in particolare in Italia, Francia, Regno Unito e Cina, con per esempio il dato di oggi sulla disoccupazione americana, ai massimi dal 1983 e soprattutto con 22 mesi di fila di calo continuo dell'occupazione, una cosa che non capitava da 70 anni a questa parte. Professor Padoan. I dati europei e della Cina sono dati incoraggianti, che confermano indicazioni che vengono anche da altre istituzioni internazionali, ma paradossalmente ci devono invitare alla cautela, perché è opinione comune che questi segni di ripresa sono ancora in gran parte, se non del tutto, legati all'effetto positivo dello stimolo di politiche fiscali e monetarie che sono state messe in atto per fronteggiare la recessione. Quindi siamo ancora lontani da una ripresa che si autosostiene, in cui il motore della crescita è il settore privato. Detto ciò, speriamo che si possa passare da questa crescita sostenuta dalla politica economica ad una crescita più sostenuta negli anni prossimi. Questo è il dato che ci deve far riflettere quando passiamo a vedere questo dato della disoccupazione americana, che, come diceva lei, è veramente molto preoccupante. Purtroppo si sa dall'esperienza storica che le recessioni comportano un aumento della disoccupazione che continua a crescere anche quando il prodotto invece riprende a andare in senso positivo. Quello che stupisce in questo caso è l'intensità del fenomeno americano, che è peggiore delle attese purtroppo, e che di nuovo ci invita a far riflettere sulla natura della ripresa in atto. È probabilmente una ripresa ancora debole, che richiederà misure di sostegno forse aggiuntive e sicuramente misure nel lungo termine di tipo strutturale per migliorare la crescita potenziale. Professor Padoan, quando lei dice la natura della ripresa in atto, significa anche che forse è una ripresa più guidata dalla parte finanziaria, penso ai bilanci bancari delle banche americane ma anche di molte banche europee, e borsistica, i titoli azionari in media hanno ripreso le quotazioni e sono tutti in rialzo da inizio 2009, e non una ripresa dell'economia reale, oppure vedete anche una ripresa dell'economia reale ma diciamo molto molto più ambigua rispetto a quanto uno potrebbe sperare? Dunque, c'è una ripresa dell'economia reale che però, come dicevo, in gran parte è determinata dallo stimolo della politica economica, monetaria e fiscale. Paradossalmente il miglioramento dei bilanci delle banche, un po' dappertutto, che è un fatto positivo nella misura in cui è effettivo, non si è ancora tradotto in un aumento del credito e in un aumento del finanziamento degli investimenti privati. Quindi c'è una separazione fra questi due aspetti. Inoltre c'è un'ulteriore separazione tra l'andamento debolmente positivo dell'economia reale e l'andamento invece quasi euforico delle grandezze finanziarie. Anche qui non bisogna farsi prendere dall'euforia, c'è molta liquidità in giro, questa liquidità alimenta domande di attività finanziarie, di materie prime e in alcuni casi anche una ripresa dell'attività di acquisto sul mercato immobiliare, che potrebbe rivelarsi slegata dai fondamentali, diciamo slegata dall'andamento dell'economia reale. Allora, nel rapporto che voi avete consegnato oggi, la cosa che le agenzie italiane, come immaginabile, hanno ripreso con più forza è il giudizio più che positivo sull'Italia, perché voi scrivete: le economie dell'Ocse continuano a mostrare forti segnali di ripresa. Il forti segnale di ripresa è stato ripreso da tutte le agenzie e il superindice dell'Ocse ha segnato un aumento di 1,3 punti rispetto ad agosto nel mese di settembre, di 3,5 punti rispetto a settembre di un anno prima, del 2008. Tra l'altro l'Italia, sempre secondo il vostro superindice, è il paese che mostra l'incremento maggiore su base annua, 10,8 punti. E questo vuol dire che insomma l'Italia è al top in questi segnali di ripresa? Ma bisogna saper leggere questo superindice. Adesso, senza smorzare gli entusiasmi, questo indice è cresciuto molto anche a partire da livelli molto bassi. Detto questo, è vero che l'economia italiana si sta riprendendo. In questo caso direi che il merito, per così dire, va ad una ripresa del commercio internazionale che è più robusta del previsto e che è uno dei dati positivi della scena in questo momento. Quindi l'Italia si sta agganciando ad una ripresa del commercio che è più sostenuta di quanto si pensasse qualche mese fa. Quando le dice, professor Padoan, ripresa del commercio, si riferisce immagino a quello asiatico soprattutto, perché la Germania non vediamo, e voi stessi dite che insomma la Germania non è tra quei paesi in cui gli indicatori mostrano una ripresa forte, assieme a Canada sono dei segni di espansione potenziale. No, non c'è dubbio, sono d'accordo che oggi in questo momento il motore della ripresa più forte è proprio in Asia, a cominciare dalla Cina che con il suo gigantesco piano di stimolo ha rimesso in moto se stessa e sta dando una grossa mano al commercio internazionale. Anche qui vale la cautela di prima, è una crescita sostenuta, che implicazioni ci potranno essere per il resto del mondo? Dovranno aggiustarsi i tassi di cambio, quindi è una ripresa del commercio che nasce da lì, ma c'è stato anche un effetto positivo degli strumenti finanziari a sostegno del commercio che sono stati resi disponibili subito dopo la crisi in misura abbondante. Questo pare che stia giocando un ruolo positivo sul sostegno all'esportazione. Ultima domanda, veniamo alle ricette, perché dal G20 a St Andrews in Scozia, da cui lei ci parla, stanno arrivando anche indicazioni, per esempio penso al ministro dell'economia britannico Alistair Darling, ministro delle finanze, che ha detto resti il sostegno di vari paesi all'economia. Allora, per evitare che si crei una bolla e poi scoppi una bolla, secondo lei gli stati devono continuare a dare sostegno all'economia? E questo va anche alla luce del provvedimento preso oggi sull'IRAP, l'IRAP per chi quindi levare in Italia l'imponibile IRAP per quello che è la parte di passivo di bilancio, e altre iniziative di carattere fiscale o comunque di agevolazione che possono mettere in campo i governi, oppure devono rientrare sui conti pubblici iniziando a dare un giro di vite? Questo è uno dei grandi temi che si dibatte nei luoghi in cui si fa politica economica ormai da parecchi mesi, e anche qui a St Andrews immagino che i ministri ne parleranno. La opinione prevalente fino a questo momento è che sia prematuro attivare misure di rientro dal sostegno sia in campo monetario che in campo fiscale, perché naturalmente non sappiamo a che punto siamo nel ciclo, ma siccome non sappiamo molto, l'idea prevalente è che è meglio esagerare nel sostenere troppo l'economia che ritirare troppo presto lo stimolo, perché soprattutto se poi viene fatto da troppi paesi insieme si avrebbe un contraccolpo negativo che potrebbe soffocare la ripresa sul nascere. Quindi anche lei, insomma, in linea con quello che dicono gli altri partecipanti, stanno dicendo del G20 in Scozia, attenzione a non partire con le misure di uscita dalla crisi, quindi di stretta in ogni senso troppo presto, perché si soffoca la ripresa sul nascere. Grazie al vice segretario generale dell'Ocse Piercarlo Padoan in collegamento con noi. Da Sebastiano Brisoni un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione. Un augurio di buon fine settimana a voi in ascolto. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.